esserlo sola. Non pensare poi di essere il meglio. A volte ci basta insistere di più. E con la punta del naso, del naso, ti spingo un po' più giù. Con la punta del naso, del naso, noi balliamo di più. Tu sei sempre la mia amica, non scordarlo mai. Ti dico che no, non potrà finire mai. In basso, forza, forza, mai. In basso, forza, forza, in alto. In basso, forza, forza, in alto. In basso, forza, forza. Ehi, tu devi fare attenzione a dirmi che non vesto bene come vesti tu. E no, zitta e buona, stai lì ferma così resti a sentire. Ho sudato per poterci arrivare e ci ho sperato fino in fondo perché a volte ci basta solo chiedere di più. E con la punta del naso, del naso, ti sposto un po' più in là. Con la punta del naso, del naso, trasformo la realtà. Rimani sempre la mia amica, non dubitarne mai. No, io sono pronta. In alto, in basso, forza, forza. In alto, in basso, forza, forza. In alto, in basso, forza, forza. In alto, in basso, forza, forza. Il mio cuore non ha, il mio cuore non ha paura di sognare. No, no, perché dentro me, dentro me, c'è un amore un po' speciale. A volte la speranza vola lontana, ma il coraggio dell'amore che io ho è grande quanto il mondo.